Ella lo vedeva come una specie di adorabile canaglia. Non riusciva a contraddirlo, non era capace di contrastarlo in nessun modo, perché ormai si era resa, spingendo così a fondo l'identificazione da sentirsi incompleta senza di lui. Aveva perso il controllo. Non si controlla un innamoramento, mi disse. Non è possibile che la divertiva che fosse potuto accadere in questo modo, con quest'uomo, un paziente, Edgar, un paziente che lavorava nell'orto. Stella, le dissi, non potevi fare una scelta più scriteriata. La verità, mi rispose, è che non ho scelto affatto. In argilla, il gesto calmo trasmetteva la forza di un vero artista. Vive l'emozione più forte, la forza stessa. Migliora nel battito ma peggiora alla vista. Da quando dalla sua finestra Londra che aggrotta la fronte, ricaccia in gola l'acqua, l'acqua che perde. Tutto si confonde quando il tutto lo vuoi perdere. Lì tutto si accorgeva della sua ragione d'esistere. Stella con la sua materasso scucito, piomba col suo peso come acqua da un lucernaio spezzato. Vetri a goccia sul viso, vedi come vola un pensiero nel fiato. Sposi una prigione innamorandoti di un internato. Ed ora guardi primavera da sbarre che non si piegano. E diversi da bere, pizzettati come un petano. Non ti permettono sognare artisti e bagnarti in un altro letto, no. Mettiti in posa l'argilla con cui ti copro. Sarò il tuo Edgar Star che creperò in un manicomio. Io sarò morboso ma se sbaglio ti ricopio. Sarò il tuo Edgar Star che creperò in un manicomio.